confessa, amore mio, io non sono più solo, l'unico hai nascosto nel cuore tuo, una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Sarà amato mai, che ne hai fatto del nostro bene, è diventato un freddo brivido, le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce con sei un'altra donna. Oh, perché tu non sei più tu? Oh, perché tu non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare, la tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare, più grande del mare. Fatto del nostro amore è diventato freddo brivido, le risate, le nostre cene.